Buongiorno, oggi di primo mattino voglio condividere con voi la mail che mi ha inviato Francesca, mamma di Alberto, un ragazzino di 9 anni che probabilmente si sta svegliando ora, pronto a iniziare la sua battaglia che ogni giorno combatta son di pianti e capricci. Un disastro. Esco di casa che sono uno straccio, scrive la mamma Francesca. Ogni occasione è buona, un giorno non vuole andare a scuola, il giorno dopo non vuole fare colazione, litiga col fratello più grande, oppure non fa la cartella. Ho provato tutto, con le buone, con le cattive, scrive Francesca, ma niente, non cavo un ragno dal buco. In compenso, la maestra mi assicura che a scuola è un angelo, è spiritoso, è divertente, è sveglio, aiuta i compagni. Ma allora, che cosa sta succedendo? Come posso iniziare la giornata partendo da questo inferno? Allora, per riportare il sorriso, almeno l'armonia, a casa di Francesca, ho pensato alla dottoressa Manuela Trinci, psicoterapeuta dell'età evolutiva, che è in linea con me. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Salve. Dottoressa Trinci, a volte i bambini si alzano con la luna storta, ma se questa diventa un'abitudine, la regola, forse è bene chiedere, insomma, farsi due domande, cercare, insomma, di risolvere un po' la situazione. Ma io penso di sì, cioè che se davvero il bambino è in un periodo abbastanza lungo, come sembra di capire dalla lettera della mamma disperata, direi, beh, forse credo che sia importante che la famiglia, cioè qui non sappiamo per esempio quelle che sono le reazioni del padre del bambino, perché per esempio la mamma soltanto, no, si occupa del bambino nell'andare a scuola. Forse potrebbe essere di aiuto alla mamma, perché mi sembra che la crisi sia forte della mamma, potrebbe essere di aiuto poter contare in un momento difficile anche sul padre, perché alcune volte, per esempio almeno nella mia esperienza, laddove per accompagnarlo a scuola o preparare la colazione si inserisce la figura del padre, qualche volta questo tipo di tensione, di contraddizione familiare va a risolversi, ecco, e si evita che la mamma sia meno straccio o quantomeno può condividere questa sua stracciosità, mi verrebbe fatto da dire, con il padre. Poi qui c'è per esempio un fratello, non ho capito, mi sa più grande, quindi potrebbe essere che siccome a scuola il bambino non dà segnali particolari, anzi sembra quasi Dr. Jekyll e Mr. Hyde, a casa un inferno, a scuola un angelo. Quindi questo mi fa veramente pensare che questi disagi, diciamo così, del bambino siano dei disagi legati alla famiglia. Cioè probabilmente, come ha detto lei Nicoletta all'inizio della trasmissione, può essere benissimo che questo bambino attraverso questi segnali appunto qualcosa alla famiglia, alla mamma. Allora, dottoressa Trinci, anche con i nostri bambini patti chiari, amicizia lunga. Allora, dal caso di Alberto le chiedo di darci qualche suggerimento che potrà essere utile al papà o alla mamma di bambini che prima di andare a scuola fanno i capricci, se ne inventano di tutti i colori e diventano un po' difficili da gestire. Dunque, primo punto, io consiglio, nel caso, nella situazione specifica di Alberto, dove c'è una mamma che sembra davvero un po' in sofferenza rispetto a questa situazione qui, di farsi aiutare dal padre. Capisco che sia difficile all'interno di una situazione familiare dove magari ci sono dei ritmi precisi, degli orari, eccetera, eccetera. Però conviene che in questo caso qui, primo step, il babbo, il padre, il papà, chiamiamolo come si vuole, intervenga direttamente. Quindi per esempio può essere lui che prepara la colazione, può essere lui che si scambia con la mamma portandolo a scuola. Quindi un maggior cambiamento di ruoli, di modo che la mamma sia sollevata da questa situazione. Questo è il primo punto. Il secondo punto, proverei un effetto un po' così paradosso, proverei a parlare con il bambino facendogli proprio notare che si è capito che il suo disagio è probabilmente un disagio dovuto a un momento della crescita, a un momento di nervosismo, perché a scuola le cose stanno andando bene. Allora, per esempio, un consiglio che generalmente funziona molto: un pomeriggio alla settimana, un'ora alla settimana, mezz'ora alla settimana, io mamma e te ragazzino usciamo, quindi usciamo anche in senso più pragmatico dalla diatriba scuola, non scuola, famiglia, e ci prendiamo uno spazio per andare a prendere una cioccolata calda, bello, questo gelato, mi piace. un gelato insieme, e quindi diciamo così, eliminiamo, facciamo quantomeno un tentativo di eliminare un faccia a faccia tra la mamma e il ragazzino. Dottoressa Trinci, grazie per essere stato con noi. Io so che lei è anche una grande studiosa di letteratura sull'infanzia. Ha un consiglio di lettura per Alberto? Per il nostro bambino? Gian Burrasca. Gian Burrasca per Gian Burrasca. Grazie, dottoressa Trinci. Buonissima giornata. Buonissima giornata anche a voi e a presto. Io senza capelli sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia. Il bambino Alberto l'abbiamo domato, adesso ci aspetta un'altra sfida, la nostra chioma, dai bambini irritabili ai capelli indomabili. Oggi va così? Spesso è proprio sotto la doccia del mattino che si decide la sorte e anche la piega della nostra chioma. Dottoressa Anna Trink, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, grazie dell'invito. La sveglio di prima mattina perché abbiamo bisogno di un dermatologo, perché lui è lo specialista che si occupa anche, oltre che della nostra pelle, delle nostre unghie, dei nostri capelli. Vero, assolutamente. Dottoressa, da che cosa iniziamo? Innanzitutto dalla corretta utilizzo della detersione del mattino, perché ha ragione, è proprio lì che si decide un po' quello che sarà l'aspetto dei nostri capelli nel corso della giornata. Prime regole di base, quindi diciamo lo shampoo e, se necessario, l'applicazione di un balsamo senza o con risciacquo che possa dare un aspetto estetico gratificante dei nostri capelli. Lo shampoo, anche qui piccoli consigli di base, non è necessario diluirlo perché non modifica in nessun modo la resa della pulizia o lo rende più delicato. Quello che invece è possibile fare, ed è un buon consiglio, quello di applicarlo prima sulle mani per attivarlo, e quando inizia l'effetto schiumogeno è possibile applicarlo sul cuoio capelluto, in modo tale che lo shampoo utilizzato venga distribuito in modo corretto su tutto il cuoio capelluto e che venga poi che non si concentri su un'unica zona. In realtà è anche una tecnica antispreco, se vogliamo. Non è necessario applicare lo shampoo sulle lunghezze, anche perché i capelli lunghi, l'effetto proprio meccanico dello scivolamento dello shampoo sulla lunghezza è più che sufficiente per detergere una struttura che è morta, perché in realtà quello che andiamo a lavare è il cuoio capelluto, che invece è dove si accumula il sebo. Certo, e lei dice, come molti dermatologi, lavate i capelli tutti i giorni. Cioè lasciandoli sporchi, non solo per l'accumulo di sebo, ma anche per il deposito delle sostanze inquinanti, che possono creare un'infiammazione del cuoio capelluto che può effettivamente danneggiare a lungo tempo la salute dei nostri capelli, e quindi farli cadere, farli apparire più opachi, meno belli esteticamente. Senta, ma il balsamo lei lo mette o no? Bisogna metterlo tutte le volte? Per chi si lava i capelli tutti i giorni è necessario mettere il balsamo o no? Da cosa si intende? Perché spesso dividerei gli argomenti, nel senso, se il balsamo lo utilizziamo per avere l'effetto districante ad ogni lavaggio, va benissimo messo sulle lunghezze di capelli lunghi che altrimenti si spezzerebbero all'essere pettinati. Se invece l'obiettivo è quello di utilizzare il balsamo per rinforzare i capelli, per trattare il fusto, allora ci vengono molto incontro queste maschere di ultima generazione, banalmente perché possono essere applicate su capello asciutto in modo tale da essere lasciate in posa anche tutta la notte. Ce ne sono alcune che hanno in dotazione anche una sorta di cuffietta, come quella per non bagnarsi i capelli sotto la doccia, per capirsi, che vengono applicate le sleeping mask, non restano a contatto tutta la notte, in modo tale che al mattino dopo sia solo sufficiente sciacquarli. Hai capito, ecco. Bello questa cosa qua, insomma l'estetica non ci guadagna perché andiamo anche a letto con la cuffia, però il capello si fa bello. Sente, per chi invece il capello non se lo vuole lavare ma è di fretta, di corsa, si guarda, dice proprio la riunione, che brutto. Qui abbiamo delle cose che possono venirci incontro, e sono spesso delle acque spray che si applicano in modo abbastanza facile sulla radice, che possono essere arricchito o meno con queste rocce vulcaniche tipo la zeolite, che si usa molto negli ultimi anni, che hanno anche l'effetto protettivo anti-inquinamento, quindi si applicano sulle radici. Come si chiama questa cosa di cui sono ricche che non ho capito? Zeolite. Sono delle rocce di derivazione vulcanica che hanno un effetto assorbente, cioè assorbono l'inquinamento al posto del nostro cuoio capelluto. Quindi soprattutto per chi vive in città inquinate possono essere anche protettive. Ma dai, ma questo delle acque, vedete, stamattina vi do anche lo spray con la zeolite, così il vostro capello si difende dall'inquinamento che ha alle stelle. E si possono usare tutti i giorni? Sì, tutti i giorni. Ma lei lo usa? Perché è davvero acqua arricchita con questi minerali, non c'è nient'altro dentro. Dove si acquistano? Supermercato, Sì, profumeria, in realtà farmacia? esistono prodotti dedicati alla vendita in salone di bellezza, oppure invece proprio su internet sono prodotti, diciamo, di stampo più farmaceutico, medico-farmaceutico, ecco. Allora, vi voglio con lo spray con la zeolite, dai, che bei capelli, tutto merito della zeolite. Grazie, dottoressa Trink, buona Grazie a giornata. voi, buona giornata. Prendi mano, cucchiaio, e la ciotola che mi servirà. Rompo nuove l'albume, io lo sbatto finché monterà. E dopo aver superato queste due sfide, io direi che possiamo chiudere in dolcezza con Stefano Polato, cuoco del ristorante Campiello e responsabile dello Space Food Lab. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno, grazie. Allora, oggi finiamo in dolcezza, come dicevi tu, propongo delle frittelle, È il classiche tempo, insomma del quasi. periodo, e l'unica cosa è che volevo far fare attenzione a chi ci sta ascoltando agli ingredienti che utilizziamo per fare le frittelle, no? Facciamo attenzione all'utilizzo degli ingredienti. Ad esempio, in una frittella ci va il burro, sì, ci va il burro. Allora, due sono le opzioni: si può sostituire con un olio extravergine di oliva delicato, ovviamente, magari un olio del Lago di Garda, molto, molto delicato, è poco profumato, è aggressivo, e le dosi sono sempre a metà. Quindi, se ci servono, ad esempio, 100 grammi di burro, ne utilizziamo 50, in questo caso di olio. Poi facciamo attenzione agli zuccheri che utilizziamo. Non esiste solo lo zucchero bianco raffinato, ma esistono tantissimi altri zuccheri che, oltre a portarsi dietro la capacità dolcificante, si portano dietro anche valori nutrizionali interessanti, come sali minerali e in qualche caso anche vitamine. Penso al miele, ma un ultimo prodotto al quale mi sono particolarmente affezionato è lo zucchero di cocco, che non ha nulla a che fare con il sapore classico del cocco, ma viene estratto direttamente dalla pianta ed è neutro, ha un basso indice glicemico e un alto potere dolcificante, quindi Dai, ne basta zucchero di poco. cocco. Poi ci sono delle alternative anche sulla farina, ovviamente. Le classiche frittelle si fanno sempre ed esclusivamente con la farina 00, quindi una farina estremamente raffinata. In realtà non è così. Possiamo provare e azzardare, sicuramente il risultato finale sarà ottimo, ad una farina o semi-integrale, quindi di tipo 1, o addirittura integrale di tipo 2. Poi possiamo aggiungere anche qui, per abbassare il carico glicemico totale, dei pezzetti di mela o dell'uvetta sultanina, quindi prodotti ricchi di fibra. Il concetto finale qual è? Il prodotto è 200 grammi di farina, 2 uova, No, aspetta, 80 aspetta, grammi di aspetta. No, zucchero. Stefano, ferma. Prego. No, ferma, perché noi dobbiamo prendere appunti. Poi c'è chi Ah, è ok. in macchina, magari poi può riascoltare naturalmente la puntata. Trovate tutto sulla nostra. Ma io devo scrivermelo. Allora, 200 grammi di farina Di farina. integrale. Io ho utilizzato la tipo 2. Ok. 2 uova. Due uova. Biologica è meglio, insomma. 80 grammi di zucchero Cocco. di cocco, 50 grammi di olio extravergine di oliva delicato, 250 ml di acqua e della scorza grattugiata di un limone non trattato. A questo punto si riscalda tutto in una pentola, acqua e olio all'inizio si riscaldano, quando l'acqua e l'olio sono caldi si versa la farina a pioggia, poi lo zucchero e il limone grattugiato e si mescola rapidamente, sempre tenendo al minimo il fuoco. Trascorsi i 20-30 secondi, in modo tale che il glutine della farina si attivi e si formi l'impasto, si toglie la pentola dal fuoco, si aggiungono le uova, Una alla volta. girando fino a creare un composto omogeneo, liscio, e a questo punto si possono aggiungere a piacere dei pezzettini di mela o dell'uvetta. Voilà. Poi si lascia raffreddare il composto e con due cucchiai si formano le palline. Allora, da una parte, se si decide di utilizzare la friggitrice, quindi l'olio per friggere, si butta dentro direttamente a olio caldo, basta che sia a 170 gradi, non di più, attenzione, altrimenti superiamo i punti di fumo, che è Sì, una no. cosa delicata. Oppure l'altra alternativa, con lo stessissimo impasto, è quella di cuocerla al forno per 25 minuti a 170 gradi. Allora, oggi siamo partiti così, dal bambino che faceva i capricci, siamo finiti alla frittella. E buona mattina a tutti, buona mattina a Stefano Polato, grazie, proverò la versione al forno delle tue frittelle. Grazie a te, grazie a voi Nicoletta, grazie. A presto e a prestissimo. Noi ci sentiamo a mezzogiorno con Obiettivo Salute per le notizie, poi potete seguirmi in video. Insomma, stiamo quasi sempre insieme. Questo mi piace, buona giornata e buon mattino da Nicoletta.